Deponi, Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione e rivestiti dello splendore della gloria di Dio per sempre. Indossa il manto della giustizia che viene da Dio. Poni sulla tua testa il diadema della gloria dell'Eterno. Dio, infatti, mostrerà il tuo splendore a ogni creatura che è sotto il cielo. Il tuo nome, da Dio, sarà chiamato in perpetuo. Pace di giustizia e gloria di pietà. Alzati, o Gerusalemme, collocati in alto ed osserva ad oriente. Ecco i figli tuoi, riuniti da occidente ad oriente per la parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Partirono da te a piedi, spinti dai nemici. Li riconduce però a te Dio, portati con gloria come su trono regale. Dio, infatti, ha deciso di abbassare ogni monte alto e i colli secolari e di riempire i torrenti appianando il terreno affinché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Fanno ombra ad Israele anche le selve e ogni albero frondoso al comando di Dio. Infatti Dio guiderà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che sono sue.